che stamani non ho voglia di tirarmi su. Prova a chiamarmi se vuoi, ma non funziona, lo sai. E non parlarmi di eroi, degli altri che non siamo noi. Missioni poi non ne vorrei, mi basta capire chi sei. Che c'è ancora un caos là fuori, che non te lo dico, no, no. Ne vedo di tutti i colori e chiedono sempre di più. Ma io resto pigro, non muovo un dito, ma se vuoi arrivo. E poi stasera non ho, no, voglia di girare più. No, non cercare nel mio cassetto, no, sogni non ce ne son più. E non conta ciò che sei, ma tutti no che dirai. Luci che ammaliano fuori, fa freddo, ma quel caldo non vuoi. Che c'è solo guerra là fuori, e chi grida di più va su. Bandiere di un solo colore, ma io non ci credo più. Thank you.